Terzo anello ad alta voce, Lord Jim di Joseph Conrad. Quando Tambi Tam arrivò in città remando come un forsennato, le donne affollavano le piattaforme delle case in attesa del ritorno della flottiglia di Dane Wallace. Il cancello venne spalancato. Tambi Tam balzò a terra e corse dentro a capofitto. La prima persona che incontrò fu la ragazza che scendeva dalla casa. Tambi Tam si fermò per un attimo davanti a lei, turbato, ansimante, con le labbra tremanti e lo sguardo fuori di sé, come se fosse stato sotto l'effetto di un'improvvisa magia. Quindi esplose. «Hanno ucciso Dane Warris e molti altri!» Ella batté le mani. Le sue prime parole furono: «Chiudete i cancelli!» Molti occupanti del forte erano tornati alle loro case, ma Tambi Tam sollecitò i pochi che erano rimasti per il loro turno di servizio. La ragazza restò in piedi in mezzo al cortile, mentre gli altri le correvano intorno. «Doramin!» esclamò disperata mentre Tambi Tam le passava accanto, ed egli, quando le capitò di nuovo vicino, le rispose: «Sì, ma noi abbiamo tutta la polvere di Patusan!» Ella lo prese per il braccio e gli sussurrò trepidante, indicando la casa: «Chiamalo fuori!» Tambi Tam salì di corsa ai gradini. Il suo padrone dormiva. «Sono io, Tambi Tam!» esclamò alla porta, «con notizie che non possono aspettare!» Vide Jim girare la testa sul guanciale e aprire gli occhi, e non poté contenersi. «Questo, Tuan, è un giorno funesto, un giorno maledetto!» Il suo padrone si rizzò ad ascoltare appoggiandosi al gomito, proprio come aveva fatto Dane Warris. E allora Tambi Tam cominciò il suo racconto, cercando di riferire le vicende con ordine, dando a Dane Warris il titolo di Panglima. Stava cominciando. Allora il Panglima chiamò il capo dei rematori e gli disse: «Date qualcosa da mangiare a Tambi Tam». Quando il suo padrone posò i piedi per terra e lo guardò con una faccia così turbata che le parole gli rimasero in gola. «Parla!» disse Jim. «È morto!» «Che tu possa vivere a lungo!» esclamò Tambi Tam. «Fu un infame tradimento. Uscì ai primi spari e cadde. Non è prudente che il tuo servo vada in giro fra la gente», disse Tambi Tam dopo un momento di esitazione. Allora Jim capì. Aveva abbandonato un mondo per l'inezia di un salto impulsivo, e ora l'altro mondo, quello che aveva creato con le proprie mani, gli era crollato sulla testa. Non era prudente che il suo servo andasse in giro fra la gente. Ho l'impressione che sia stato quello il momento in cui decise di sfidare la catastrofe nel solo modo in cui pensava si potesse affrontare una tragedia di quelle dimensioni. Ma tutto quello che so è che, senza dire una parola, uscì dalla camera e si sedette al tavolo lungo dalla cui estremità soleva regolare quel suo mondo, proclamando quotidianamente la verità che certamente viveva nel suo cuore. Quali pensieri gli passarono per la testa? Quali ricordi? Chi può dirlo? Non gli restava nulla. Egli, che già una volta era venuto meno al compito che gli era stato assegnato, aveva perso di nuovo la fiducia degli uomini. Fu allora, credo, che tentò di scrivere a qualcuno, ma vi rinunciò. La solitudine si chiudeva su di lui. Ella gli gridò nelle orecchie: «Combatti!» Ma non poteva capire, non c'era nulla per cui combattere. In altro modo avrebbe dimostrato la propria forza e avrebbe vinto il destino. Uscì nel cortile ed ella lo seguì con i capelli al vento e il viso sconvolto, senza fiato, traballando e appoggiandosi allo stipite. «Aprite i cancelli!» ordinò Jim. Poi, volgendosi ai suoi uomini che erano rimasti dentro, diede loro il permesso di tornare a casa. «Per quanto tempo, Tuan?» chiese timidamente uno di loro. «Per tutta la vita», rispose lui cupamente. Il sole scendeva verso la foresta quando il corpo di Dane Warris fu portato nel kampong di Doramin. Fu trasportato da 4 uomini, coperto rispettosamente da un lenzuolo bianco che la vecchia madre aveva fatto mandare alla porta per l'arrivo del figlio. Lo deposero ai piedi di Doramin e il vecchio restò seduto per molto tempo assolutamente immobile, con gli occhi abbassati e le mani appoggiate sulle ginocchia. Sopra la sua testa dondolavano le fronde delle palme e il fogliame degli alberi da frutto si muoveva leggermente. Tutti i suoi uomini erano lì accanto a lui, armati di tutto punto, quando il vecchio Nakoda alzò infine gli occhi. li girò lentamente sulla folla, come se stesse cercando un viso che non c'era, quindi abbassò di nuovo il mento. Il mormorio della moltitudine si mescolava al leggero stormire delle foglie. Quando il corpo di Dane Warris fu scoperto, un segno di Doramin, colui che spesso chiamavano l'amico del Signore Bianco apparve uguale a come era prima, con le palpebre semiaperte, come se fosse in procinto di svegliarsi. Doramin si piegò ancora di più in avanti, come uno che cerca a terra qualcosa che gli è caduto. Gli occhi frugarono il corpo dalla testa ai piedi, forse per scoprire la ferita. Era in fronte e piccola. E nessuno disse una sola parola quando uno dei presenti, chinandosi, tolse l'anello d'argento dalla mano fredda e rigida. In silenzio lo sollevò davanti a Doramin. Un mormorio di orrore e sbigottimento corse fra la folla alla vista di quel segno familiare. Il vecchio Nakoda lo guardò e di colpo emise un urlo alto e selvaggio dal profondo del petto. Un ruggito di furore e di sofferenza, possente, come il mugolare di un toro ferito, che portò una grande paura nei cuori degli uomini, per l'enormità di quella rabbia e di quel dolore che si comprendevano senza alcun bisogno di parole. Circa nello stesso momento, Jim, appoggiato all'affusto di un cannone, fissava il fiume con la schiena voltata alla casa, sulla cui soglia la ragazza, trafelata, come se si fosse arrestata dopo una lunga corsa, lo guardava dall'altra parte del cortile. Tambitam era in piedi non lontano dal padrone, in paziente attesa di ciò che poteva avvenire. E di colpo Jim, che sembrava perso in tranquilli pensieri, si volse verso di lui e disse: «È ora di farla finita». «Tuan», disse Tambitam avvicinandosi sollecito. Non capiva che cosa intendesse dire il suo padrone, ma non appena Jim fece un movimento, anche la ragazza si mosse e scese fino allo spiazzo. Pare che nella casa non ci fosse nessun altro. Ella trotterellava leggermente e circa metà della discesa chiamò Jim, che apparentemente aveva ripreso la sua tranquilla contemplazione del fiume. Egli si volse appoggiando la schiena al cannone. «Combatterai?» gli urlò lei. «Non c'è nulla per cui combattere», rispose lui. «Nulla è perduto». E nel dire questo fece un passo verso di lei. «Fuggirai?» gridò di nuovo lei. «Non c'è scampo», disse lui arrestandosi. E anche lei si fermò, silenziosa, divorandolo con gli occhi. «E allora andrai?» disse lentamente. Egli chinò la testa. «Ah!» esclamò la ragazza, guardandolo con occhi penetranti. «Tu sei pazzo, falso! Ricordi la notte in cui ti pregai di lasciarmi e tu mi dicesti che non potevi? Che era impossibile, impossibile! Ricordi che dicesti che non mi avresti mai lasciato? Perché? Non ti chiesi di promettermi nulla. Fosti tu a prometterlo spontaneamente, ricordalo!» «Basta, mia povera ragazza», disse. «Non vale così tanto la pena di avermi». Piegato su di lei, Jim la fissò in viso con uno sguardo intenso, poi all'improvviso corse verso l'imbarcadero. Tambi Tam lo seguì, ma girando la testa vide che ella era riuscita a rizzarsi in piedi. Gli corse dietro per qualche passo, ma cadde pesantemente in ginocchio. «Tuan, Tuan», l'invocò Tambi Tam, «voltati». Ma Jim era già in piedi su una canoa, con la pagaia in mano. Non si voltò. Tambi Tam ebbe appena il tempo di saltare nell'imbarcazione che aveva già lasciato la riva. La ragazza era in ginocchio al cancello sull'acqua, con le mani giunte. Rimase così per un po' in atteggiamento supplichevole, prima di rialzarsi di scatto. «Sei falso!» gridò dietro a Jim. «Perdonami!» esclamò lui. «Mai!» «Mai!» lei ribatté. Tambi Tam prese la pagaia dalle mani di Jim, non sembrandogli giusto rimanere tranquillamente seduto mentre il suo signore remava. Quando giunsero sull'altra riva, il suo padrone gli proibì di procedere oltre. Ma Tambi Tam lo seguì a distanza, salendo il pendio che portava al campo di Doramin. Solo, enorme, desolato. Doramin sedeva sulla sua poltrona, con un paio di pistole a pietra focaia sulle ginocchia, di fronte a una folla armata. Quando comparve Jim, qualcuno dette in un'esclamazione che fece voltare tutte le teste. Quindi la massa si aprì alla sua destra e alla sua sinistra, ed egli attraversò quello stretto corridoio di sguardi sfuggenti. Era seguito da un cicaleccio di commenti a bassa voce. «È lui che ha provocato tutto il male! Ha addosso un incantesimo!» Egli li udì. Forse. Jim avanzò lentamente. Sollevò il lenzuolo per guardare l'amico morto e lo lasciò cadere senza una parola. Tornò lentamente indietro. «È arrivato! È arrivato!» era la frase che correva di bocca in bocca, sollevando un mormorio che turbò Jim. «Ha detto che pagherà con la vita!» disse una voce in mezzo alla folla. Egli sentì e si volse verso di loro. «Sì! Pagherò con la vita!» Alcuni indietreggiarono. Jim attese per qualche momento davanti a Doramin, quindi disse dolcemente: «Sono venuto con l'animo pieno di dolore». Fece un'altra pausa. «Sono venuto pronto e disarmato», ripeté. Abbassando la grossa fronte come un bue oppresso dal giogo, il mastodontico vecchio fece uno sforzo per alzarsi, dopo aver afferrato le pistole che teneva sulle ginocchia. Dalla sua gola uscivano gorgogli soffocati e inumani, mentre da dietro i servi lo aiutavano a sollevarsi. Quindi, mentre Jim restava rigido e a capo scoperto alla luce delle torce, guardandolo fisso in faccia, egli si avvinghiò pesantemente con il braccio sinistro intorno al collo di uno dei due giovani e, alzando deliberatamente il destro, sparò in pieno petto all'amico di suo figlio. La folla, che si era aperta dietro Jim, ma non appena Doramin aveva sollevato la mano, si precipitò tumultuosamente verso di lui dopo lo sparo. Si dice che l'uomo bianco abbia lanciato a tutte quelle facce, a destra e a manca, uno sguardo orgoglioso e risoluto. Quindi si portò la mano alle labbra e cadde in avanti, morto. E questa è la fine. E così se ne va, dimenticato, senza perdono, oppresso dalla sua nube, imperscrutabile nel cuore, esageratamente romantico. Neppure nei giorni più sfrenati delle sue visioni di adolescente avrebbe potuto vedere la seducente forma di quel successo straordinario. E forse, nel balenare di quello sguardo orgoglioso e risoluto, aveva scorto infine il viso di quell'occasione che, velata come una sposa orientale, gli era rimasta accanto per tutti quegli anni. Noi invece lo vediamo come un oscuro conquistatore di gloria, che si strappa dalle braccia di un amore geloso per rispondere al segno, al richiamo del suo sublime egoismo. Si allontana da una donna viva per celebrare le proprie nozze spietate con un vago ideale di condotta. Sarà soddisfatto adesso, mi chiedo. Noi dovremmo saperlo. Egli è uno di noi. E io non sono forse apparso una volta come un fantasma evocato a difendere la sua eterna fedeltà? Ho sbagliato così tanto, dopo tutto. Ora che egli non è più, ci sono giorni in cui sento la realtà della sua esistenza come una forza invincibile che mi soverchia. E tuttavia, lo giuro sul mio onore, vi sono anche momenti in cui svanisce davanti ai miei occhi come uno spirito disincarnato, smarrito fra le passioni di questa terra, pronto a cedere docilmente alla chiamata del suo mondo di ombre. Chissà, se n'è andato, imperscrutabile nel cuore, e la povera ragazza conduce una vita inerte e silenziosa nella casa di Stein. Stein è invecchiato molto ultimamente, ne è consapevole lui stesso, e ripete spesso che sta preparandosi a lasciare tutto questo, preparandosi ad andarsene. E nel dir questo, accenna tristemente con la mano alle farfalle. Thank you. Eccomi di nuovo con voi. Sono Adriana Cavarero, che torna a giudicare con voi dopo la lettura di Lord Jim. Non c'è lieto fine. Jim muore, anzi, cerca la morte come un eroe esageratamente romantico. Marlowe commenta acutamente che si tratta anche di un sublime egoismo. E proprio qui sta il romanticismo di Jim, che molte volte, nel corso del romanzo, abbiamo sentito nominare. Sta nell'egocentrismo di una figura che si dedica ossessivamente soltanto a se stessa e al suo fato infelice. Jim interpreta come riferito a se stesso le parole dell'infame Brown, che nulla sa del suo salto. Jim ama la lealtà e la devozione degli indigeni perché lo fanno apparire ai suoi stessi occhi come il modello di uomo senza macchia, proprio come il suo impeccabile vestito bianco. È comunque una riflessione che compare nella parte finale del libro a farci capire dove sta l'eccesso di questo solipsismo romantico. Vi si dice che dare la propria vita all'umanità di pelle bruna, gialla o nera è giustificato solo se lo si fa per la fede nelle idee che nascono dalla nostra razza, su cui si fondano i principi e gli ordinamenti del progresso morale. È insomma la missione civilizzatrice del colonialismo a rendere sensata la vita di un bianco spesa nella giungla malese. Jim invece, come viene puntualmente rimarcato, va nella giungla per fare i conti solo con se stesso. In questo senso, egli è appunto romantico, proprio perché è eccentrico al colonialismo. A dire vero, il quadro simbolico è molto complesso. Da un lato, la figura enigmatica di Jim, come avevo cercato di argomentare nel mio discorso introduttivo, rappresenta il colonialismo nel suo nodo inscindibile di bene e male, di luce e tenebra, di onore e di infamia. Da un altro lato, però, si oppone appunto ai fondamenti etico-politici del colonialismo, perché è un eroe romantico interessato solo a se stesso. I due lati fanno del resto parte dell'enigma. Lo sfondo, come spesso avviene nei romanzi di Conrad e in primis in Cuore di Tenebra, è una divisione dell'umanità in uomini bianchi e animali di pelle bruna, gialla o nera. Divisione che, lungi dall'essere un postulato saldo e definitivo, si mostra però fasulla e per questo inquietante. Non ha infatti alcun dubbio colui che accusa Jim di voler solo fare i conti con se stesso, nell'aggiungere che dare la propria vita agli indigeni senza la fede in una missione civilizzatrice è come abbandonare la propria anima agli animali. Jim, da parte sua, nel suo primo incontro con Marlowe, si indigna perché ha creduto di sentirsi definire un animale. Animali, semmai, Jim è disposto ad ammettere, sono i suoi compagni di scialuppa, gente immonda e codarda, e tuttavia di pelle bianca, con cui egli non ha niente a che fare. Ma proprio qui sta il problema, o se si vuole l'enigma. Anche Jim è saltato. È proprio vero che non abbia niente a che fare con l'infame equipaggio del Patna, visto che si riconosce nell'autodescrizione di Brown. È proprio vero che fra Jim e la bestialità di Brown ci sia una differenza abissale. Conrad non risolve il problema, anzi, lo trasforma in una cadenza narrativa. Il ritornello Uno di noi si accompagna infatti alla continua contrapposizione, l'avete sentito, di noi a loro. Il punto riguarda proprio una distinzione fra noi e loro che, per quanto sembri evidente e risulti indispensabile per l'avventura coloniale, nella sua sostanza non regge. L'animalità e la tenebra sono anche e forse soprattutto in noi. L'umanità e l'onore sono anche e forse soprattutto in loro. Jim compendia ambedue le alternative nella forma di un enigma. Mi siano concesse per concludere due brevi annotazioni. L'una, che trae ispirazione da Hannah Arendt, fine ed anomala interprete dei romanzi conrandiani, riguarda la funzione del narratore. L'enigma di Jim rimane irrisolto anche per Marlowe, il suo biografo. Tuttavia, proprio perché egli ne ha narrato la vita, noi sappiamo chi è Jim, perché ne abbiamo ascoltato la storia. Precisamente questo dice il romanzo, ogni romanzo. La complessa struttura narrativa di Lord Jim mette magistralmente in scena non solo un carattere, quanto si vuole emblematico, ma soprattutto l'unicità di ogni esistenza umana, in quanto essa non ha altra forma per dirsi che il racconto della sua storia. La seconda annotazione rivela invece la mia matrice femminista e riguarda le donne. Indispettitosi perché a una signora il romanzo non era piaciuto, Conrad ha dichiarato che il tema di Lord Jim è naturalmente estraneo alla sensibilità femminile. È vero. Non solo perché si parla di virili sfide sui mari e di uomini avventurosi, ma perché l'unica eroina del romanzo, Gemma, compendia l'idea del femminile in modo melensamente stereotipico, a mio avviso. Scrive Conrad, in un altro romanzo, Victory, che il rapimento dell'amore e dell'abnegazione costituisce la sublime facoltà di una donna. Per una lettrice quale io sono, c'è voluta dunque una buona dose di ironia per apprezzare spassionatamente le romantiche avventure di questo egocentrico bambino, è il perfido Cornelius a dirlo, che è appunto Lord Jim. Christian Jansante ha letto Lord Jim di Joseph Conrad. Postfazione di Adriana Cavarero. Traduzione di Giovanni Baldi e Manuela Giasi. Edizioni Garzanti. Riduzione di Giovanni Piccioni. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it